9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 22 settembre, all'indomani del consiglio di amministrazione di Unicredit che ha forzato Alessandro Profumo a lasciare la banca. Le sue sono dimissioni non volontarie, si è fatto sfiduciare, ha chiesto che ci fossero le impronte digitali sulla sua uscita dalla banca. Eppure all'indomani di questo trauma alla seconda banca italiana e a quella più internazionalizzata in 22 paesi, se guardate le informazioni di oggi sulla stampa quotidiana, su tutte le testate, io mi rendo conto che sia molto difficile avere una opinione precisa, perché le campane sono tante e sono diverse. E soprattutto, prima di giudicare nel merito la scelta degli azionisti, delle fondazioni di Verona, della fondazione torinese che con Palenzona lascia la difesa che aveva intrapreso molte volte sotto a critiche per le ricapitalizzazioni, per le scelte di guida aziendale di Profumo, e che diventa decisiva quindi insieme ai veronesi per dare sostegno agli argomenti degli amministratori in consiglio della parte tedesca guidati dal presidente Litterrand, e dire no, Profumo è troppo autonomo, non ci troviamo più nelle sue scelte. C'è un punto che viene prima, che è parallelo rispetto alle vicende interne della banca, e questo punto è una domanda esplicita: quanto e se la politica abbia contato e pesato in questa svolta traumatica. Ripeto, se guardiamo l'informazione italiana, le opinioni sono proprio molto diverse in proposito, perché faccio una sintesi estrema. Il Corriere della Sera ha un fondo firmato oggi Francesco Giavazzi che non ha dubbi nell'esprimere un giudizio tagliente e secco, come nello stile di Francesco Giavazzi. Il titolo dell'editoriale è "Un errore grave", e l'errore grave che Francesco Giavazzi e il Corriere della Sera, utilizzando il professor Giavazzi come editoriale, indica ai suoi lettori non ha per niente a che vedere con la politica, perché propone la tesi secondo la quale Francesco Giavazzi, di cui riconosce a Profumo anche errori compiuti, Giavazzi dice l'errore è stato quello, si fa per dire, perché non è un errore per Giavazzi, di aver voluto guidare una banca con mano orgogliosamente precisa, pensando solo agli interessi della banca e senza venire a patti, sto leggendo, con le consorterie che comandano in Italia, dove per consorteria intende innanzitutto il mondo degli azionisti, non il mondo della politica. Ed è una tendenza che il professor Giavazzi indica non solo in Italia, peraltro, perché dice la stessa cosa il voler concepire le guide delle grandi banche per somme di feudi territoriali che vive nel dibattito tedesco o in Gran Bretagna. E quindi, insomma, dice qui il grande merito di Profumo, che gli vale la testa tagliata, è quella invece di avere una visione più avanzata di come si guida il secondo istituto bancario italiano. L'unico passaggio dedicato alla politica nel fondo di Francesco Giavazzi è quello in cui si afferma che i politici della Lega non sono diversi dai vecchi democristiani. Loro controllavano il territorio e i voti attraverso le casse di risparmio e le municipalizzate. La Lega mi pare sulla stessa strada. Però il tema dei feudi è molto più ricondotto a un'analisi di potere economico. Se invece siete lettori di Repubblica, la tesi diverge in maniera assoluta, ed è proprio la politica a essere indicata come il punto della svolta che ha avuto il peso preminente nel indicare imperiosamente alla porta, seppure con 40 milioni di euro di buona uscita, ad Alessandro Profumo, perché l'editoriale di Massimo Giannini ha come titolo "La vittoria dell'asse Berlusconi-Geronzi", e praticamente la svolta decisiva sul cambio di opinioni delle fondazioni azioniste di Unicredit viene attribuita alla pressione appunto di Palazzo Chigi e dell'ex presidente di Mediobanca, ex guida di Capitalia, che viene poi comprata da Unicredit. Profumo si pentirà dopo di questo acquisto, tutti lo indicano retrospettivamente come uno dei maggiori errori di Alessandro Profumo. E Repubblica, comunque, nell'indicare questa partita tutta politica, indica anche il passaggio successivo che verrebbe dopo il dimissionamento obbligato di Alessandro Profumo, cioè la fusioni generali Mediobanca, che è un tema sul quale tutti gli analisti che considerano esclusivamente dal punto di vista del mercato le vicende di questi due grandi gruppi hanno sempre detto, bah, che senso ha? Ma qui la partita, secondo Repubblica, è totalmente politica. Se invece avete la stampa di Torino come punto di riferimento, il pericolo indicato nell'editoriale di Luigi La Spina è quello del ritorno al passato, ma il ritorno al passato è in questo caso molto più indicato ancora una volta nel ruolo improprio di questi azionisti mezzi pubblici, mezzi privati e molto autoreferenziali che sono le fondazioni rispetto al ruolo della politica. E se invece leggete Il Messaggero, l'editoriale dell'editore, del direttore del Messaggero Roberto Napoletano, indica ancora più precisamente solo nelle vicende aziendali e nel rapporto tra azionisti e manager la ragione di quello che è avvenuto. E infatti il titolo dell'editoriale di Roberto Napoletano è L'azionista conta, la regola dimenticata, caso Profumo e Italia. Quanto alla politica, il giornale diretto da Vittorio Feltri titola Cacciato il banchiere della sinistra, giallo sulle dimissioni di Profumo, poi la sfiducia del Consiglio di amministrazione, e c'è un'analisi firmata da Ludovico Festa, quel banchiere che piace a sinistra. Il distacco della politica, si legge sotto il titolo del giornale, era solo di facciata, una forma di retorica che alla fine gli si è ritorta contro. Le differenze con Bazzoli e Passera, capaci invece di cambiare atteggiamento per fare sistema. Vi sono poi nelle analisi dei maggiori quotidiani riferimenti anche al fatto che molti si interroghino sul fatto se il Papa Nero, quello indicato, e prendendo un'espressione di Ezio Mauro, il direttore di Repubblica, da Walter Veltroni qualche giorno fa come leader potenziale del PD e del centrosinistra alle nuove elezioni, ma estraneo al partito e espressione della società civile, non possa essere proprio Alessandro Profumo, di cui ricordate le polemiche qualche anno fa quando si mise in fila per partecipare alle primarie dell'Unione. Insomma, la politica, i giornali non riescono a indicare una cifra unitaria, e se fino a ieri, anche con le dichiarazioni rilasciate qui ai nostri microfoni dal sindaco di Verona e quindi azionista della Fondazione Cari Verona, fu Flavio Tosi, custode infedele è stata l'espressione che ha usato il sindaco di Verona ieri nei confronti di Alessandro Profumo, facendoci chiaramente capire che entro la sera la cosa si sarebbe risolta. Eppure molti quotidiani oggi sottolineano, titolo del Sole 24 Ore di oggi, le due linee della Lega e il gelo con il PDL, riportando numerose dichiarazioni di altri esponenti della Lega disallineate rispetto al tono deciso e preciso del sindaco di Verona, leghista, che in quanto azionista ha rivendicato il ruolo della fondazione nell'avere più peso rispetto alle logiche del governo territoriale della banca. Ci sono leghisti di peso come Giorgetti che oggi vengono citati da molti giornali con dichiarazioni in cui si invita alla grande prudenza. Perché? Perché il ministro dell'economia Giulio Tremonti su tutti i quotidiani viene descritto come intento fino a ieri ancora in un'azione di freno molto prudente di questa posizione netta assunta dalle fondazioni, preoccupato dalle conseguenze sistemiche che per l'Italia nel mondo, anche per i titoli del debito pubblico, vista l'importanza e il peso di Unicredit, può avere questa vicenda. E quindi questo salto nel buio a Giulio Tremonti non è piaciuto per le modalità, oltretutto, di indicare la porta ad Alessandro Profumo senza che fosse matura la successione, visto che qui il successore ancora non c'è. Quindi tante letture diverse. A questo punto la cosa migliore è chiedere direttamente a esponenti politici delle due parti che ci chiariscano le idee, perché un conto è se questa vicenda va analizzata alla luce dello sviluppo complicato e travagliato di un sistema bancario nel quale questi azionisti che non vi sono in nessun altro paese occidentale, cioè le fondazioni bancarie, hanno un ruolo in questa vicenda decisivo, e si tratta di capire se è un ruolo che è un ritorno al passato, è semplicemente l'espressione della crisi, visto che non hanno i dividendi da 2 anni dagli amministratori delegati e quindi diventano più mordaci le fondazioni. Ma un conto è se questa vicenda va inquadrata in questo prospetto dell'evoluzione dei rapporti economici finanziari all'interno dei grandi gruppi bancari tra le fondazioni territoriali e i manager. Altro conto è invece se bisogna porsi come domanda preliminare quella di un peso della politica, decisivo addirittura, dice Repubblica, nell'indicare a Profumo la porta. E allora abbiamo deciso di cominciare questa prima parte della trasmissione chiedendo a due politici di parti diverse di chiarirci la loro impressione in materia. E quindi abbiamo Nicola Rossi, il senatore Nicola Rossi del PD, buongiorno. Buongiorno. E Maurizio Fugatti, invece, parlamentare per la Lega. Buongiorno Fugatti. Buongiorno. Io comincerei da Fugatti, chiedendole il proprio personale punto di vista come rappresentante della Lega su questa lettura che, in cui molti quotidiani oggi indulgono, cioè su queste presunte due linee. Ma ci sono davvero queste due linee? Oppure, ripeto, il sindaco di Verona fa il sindaco espressione degli azionisti di Cari Verona in quanto ente territoriale, e poi la Lega in realtà è su una posizione che come forza politica guarda il sistema bancario in maniera diversa dal sindaco, che è anche azionista. Che ci dice, onorevole Fugatti? Innanzitutto qui pare che da alcune parti ci sia l'intenzione di diciamo dare la colpa alla Lega per quanto è successo ieri in Unicredit e all'amministratore delegato Profumo. Noi invece la questione la riconduciamo all'interno di una vicenda del tutto aziendale che riguarda i soci, che riguarda il rapporto dei soci con l'amministratore delegato. Il fatto che all'interno della Lega qualcuno dica che ci sono due linee o due modi di interpretare questa vicenda, io credo che questo non sia vero. C'è certamente una sensibilità diversa da parte di chi ricopre in determinati territori cariche istituzionali e chi invece ha rapporti con, diciamo, finanziari, economici di tipo politico, che in quanto non ricopre questi incarichi. Noi riteniamo che qui ci sia la volontà di dare alla Lega la colpa del killer, diciamo. Invece noi siamo stupiti per quello che è successo, perché noi crediamo che una banca importante, al di là che noi condividiamo meno come si è sviluppata Unicredit negli ultimi anni nei mercati finanziari nazionali e internazionali, una banca importante come Unicredit che decida di mettere alla porta il proprio amministratore delegato senza poi avere pronta una sostituzione, ci lascia preoccupati da una parte e dall'altra anche stupiti, perché è una decisione importante che non può essere fatta secondo noi in questo modo. Quindi la Lega diciamo non c'entra nel fatto che Profumo ha dovuto dimettersi, anzi la Lega in questo momento è preoccupata per quanto può succedere anche all'interno, in questo momento di crisi economica. Unicredit sappiamo quanto sia importante sia per la finanza e per l'economia nazionale, ma non solo, e siamo anche preoccupati per come si svilupperà questa vicenda. Bene, quindi l'interpretazione di Fugatti l'avete sentito, e guardate che noi non abbiamo le nostre impronte digitali su questa decisione che matura all'interno di Unicredit. E la stessa impressione di Nicola Rossi, glielo chiedo non solo come senatore del PD, ma insomma come economista, che ai nostri microfoni invitiamo spesso più per la seconda qualifica che per la prima, anche se naturalmente la prima è quella pubblica, al mandato degli elettori. Però che impressione ha Nicola Rossi? La mia impressione, diciamo, è che ci sia in realtà pochissima contraddizione fra le tesi, per esempio, sostenute oggi dal Corriere e quelle sostenute da Repubblica, perché le fondazioni, e qui chi non vuole vedere, diciamo, e credo che la Lega non voglia vedere, le fondazioni sono ancora uno snodo essenziale, diciamo, degli assetti di potere del paese, e visibilmente sono permeabili alla politica. Quindi le due cose in realtà stanno perfettamente insieme. Purtroppo quello che vediamo è ancora una volta la conferma di una regola. quando le riforme non vengono portate fino in fondo, poi le riforme fatte a metà sono il trampolino di lancio delle controriforme. Qui l'operazione che doveva portare alla fuoriuscita integrale delle fondazioni dalle banche non è stata portata a termine. Ci siamo cullati per un lungo tempo dicendoti che era un fattore di stabilità, eccetera eccetera. La realtà dei fatti, diciamo, è che le fondazioni avevano un compito, dovevano svolgere quel compito, hanno sempre pensato di svolgere un altro però, e quindi la cosa prima da fare in questo momento sarebbe ricondurre nel loro alveo naturale, cosa che oggi naturalmente è difficilissima. Io aggiungo un'altra cosa: a me questa vicenda, devo essere sincero, mi ricorda veramente molte pagine della storia italiana. Credo che in un conflitto che ha origini di potere e politico, il risultato finale sarà uno solo: lo spostamento degli equilibri della banca verso la Germania. Credo che i tedeschi non abbiano mai accettato con molta felicità di avere in Germania solo la filiale regionale di una grande banca italiana. Non credo che la cosa le abbia mai fatti piacere. Credo che in questa occasione quello che accadrà sarà semplicemente che riporteremo un po' più in Germania quella che era una grande banca europea con la testa italiana. Io credo che questo aspetto sfugga a molti in questo momento e mi auguro di sbagliare. Allora, una domanda a Rossi e insieme la stessa domanda subito dopo a Fugatti. Leggo da Marco Alfieri, secondo me bravissimo giovane giornalista della Stampa, a proposito sempre delle vicinanze politiche di espressioni importanti alla guida delle fondazioni bancarie con la politica, e chiedo: perché non ha fatto scandalo per molti anni quello che Marco Alfieri scrive e poi lo scandalo diventa invece oggi la presenza di un partito diverso che fa delle dichiarazioni attraverso la bocca del sindaco di Verona? Che cosa scrive Marco Alfieri? Vi leggo testualmente: i Guzzetti in Cariplo, i Biasi in Cari Verona, i Palenzona in CRT, i De Poli in Cassamarca, i Finotti in Cariparo. Stiamo parlando delle figure di riferimento alla testa delle maggiori fondazioni azioniste o di Unicredit o di Banca Intesa. Riprendo a leggere: sono abituati da anni a surfare sulla mitica galassia del nord, resistendo al pressing della politica. Basta vedere le caselle leghiste dentro le fondazioni padane. In realtà le posizioni pregiate sono sempre rimaste appannaggio democristiano, potenza del marchio. A Torino, in compagnia di San Paolo, al posto di Bruno Manghi e Suor Giuliana, entreranno l'avvocato Patrizia Poliotto e Gian Giacomo Migone, la prima in quota PDL e il secondo espressione della borghesia progressista. Lo stesso governatore Cota si è tenuto ben alla larga dalla guerra dentro Intesa San Paolo. Su sponda CRT, fondazione torinese e azionista di Unicredit, il segretario generale Angelo Miglietta intrattiene buoni rapporti con Giorgetti, ma il dominus incontrastato resta l'ex democristiano Palenzona, e così via. L'elenco è lungo. Domanda, senatore Rossi: come mai il fatto che a distanza di 16 anni dalla scomparsa della Democrazia Cristiana autoreferenzialmente tanti esponenti di punta delle fondazioni sono rimasti espressione diretta dell'impegno politico in quel partito, ma questo non ha mai rappresentato un criterio politico di lettura delle loro scelte nel grande consolidamento bancario, mentre invece i due poli, la sinistra e la destra, quando avvengono vicende di questo tipo si accusano puntandosi il dito contro? Sono stati più intelligenti i democristiani? Se sono democristiani non è politica? Qual è il punto vero secondo lei? Il paese per 50 anni, credo che una ragione ci debba pure essere, diciamo, quindi come dire, che ci fossero una grande cultura e una grande capacità in quel partito mi sembra fuori di dubbio. Il punto qui è un altro, il punto è quello che dicevo prima: tutta questa operazione era stata fatta pensando ad una fuoriuscita integrale delle fondazioni dalle banche e il problema non ce lo porremmo ora. La realtà dei fatti è che c'è chi ha saputo resistere perfettamente, collocandosi, l'ho detto prima, negli snodi degli assetti di potere e avendo sempre in mente che quegli snodi hanno anche una valenza politica. Questo va da sé, diciamo. Oggi il problema riemerge, se si vuole, perché, come dire, viene la Lega, lo ha posto, o qualche esponente della Lega lo ha posto, se così posso dire, in maniera più sguaiata rispetto ai vecchi democristiani, ma il problema è sempre identico, sempre lo stesso: non abbiamo completato un'operazione inflazione e oggi ne paghiamo le conseguenze. Fugatti, secondo lei i democristiani non sono politica e per questo rimangono per tanti anni, e se invece c'è un'espressione degli azionisti di altro colore politico sospettate così tanto l'uno degli altri che vi regalate polemiche politiche che consolidano solo gli autoreferenziali democristiani? Come la vede lei? Ma è chiaro che i democristiani che erano all'interno di questi organi societari da diverso tempo, da diversi anni, magari c'è stata un po' anche, diciamolo, chiamiamolo così, l'abitudine di vederli e quindi ci siamo un po' abituati. Nel momento in cui cominciano a cambiare le presenze all'interno di questi organi, qualcuno può porsi il dubbio. Ma qualcuno adesso dice anche che la Lega sta sostituendo quella che era la presenza appunto democristiana all'interno dei gangli di potere del sistema finanziario italiano. È chiaro che la Lega, nel momento in cui va a governare regioni, province e comuni, non è che può far finta di non vedere quello che accade sul proprio territorio, anche perché noi abbiamo una visione del rapporto tra banca e territorio che punta al rapporto della banca col territorio. Per esempio, noi ricordiamo che quelle che erano una volta le vecchie casse di risparmio, enti territoriali importanti sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto finanziario, ma anche sociale, dove il cliente entrava e era il signor Rossi Mario, il signor Bianchi Tiziano, e veniva trattato per tale, al di là dei suoi rapporti economici con la banca. Oggi uno entra in una grande banca ed è il numero 2534 e viene trattato come il numero 2534. Se deve chiedere un fido, la banca dice: signor 2534, devo chiedere all'ufficio di Milano, magari non so, siamo a Verona, devo chiedere all'ufficio di Milano se dà il via libera per il suo fido. E questo porta a una lontananza tra il cliente e la banca che si ripercuote poi nei rapporti anche territoriali. Questo è il cardine principale della politica, se possiamo chiamarla così, della Lega all'interno del mondo bancario. Noi vogliamo che le banche rimangano collegate al territorio, alle piccole e medie imprese, alle famiglie, quello che una volta, diciamo, avevano sempre fatto le casse di risparmio, quello che oggi fanno le banche di credito cooperativo, quello che fanno le banche popolari. Questo è il punto di riferimento secondo noi. Ora, se questo vuole essere visto come un modo per cui la Lega vuole entrare e fare quello che facevano i democristiani, cioè occupare solamente il potere, questo è sbagliato. La Lega può restare chiunque, anche perché noi siamo entrati, per esempio il Cari Verona, noi siamo appena entrati, nelle altre fondazioni nemmeno siamo entrati. Noi, se rimane il signor Tal dei Tali e fa la politica della banca del territorio, noi questo non lo mandiamo via, sia chiaro questo, non c'è la volontà di andare ad occupare potere. Noi vogliamo che le banche facciano la territorialità, perché al nostro modo di vedere, e magari poi ci sbagliamo, sia chiaro, non abbiamo la presunzione di avere la verità in tasca, al nostro modo di vedere questo porta a lontananza dal territorio con la banca e alla fine non fa gli interessi delle piccole e medie imprese. Allora, domanda secca a Fugatti e poi la stessa a Nicola Rossi. Di fronte al fatto che Unicredit, certo c'è la crisi, però insomma il modello di gestione era quello fortemente voluto da Profumo, fa aumenti di capitale per 6,6 miliardi, fa altre rettifiche per più di 8 miliardi per le perdite e le rettifiche patrimoniali, soprattutto da registrare nell'est, paga il Kazakistan l'ira di Dio, passa nell'ultima semestrale dai tempi verdi in cui c'erano più di 3 miliardi di euro di utile nella semestrale a poco più di 600 milioni, cioè si abbassa di 4 quinti l'utile. Ecco, di fronte a tutto questo ieri Alessandro Profumo lascia e 40 milioni di euro è la sua buonuscita. È un dato che fa molto molto reagire i nostri ascoltatori e credo tutti quelli, perché tutti si chiedono 40 milioni di euro di fronte a questi risultati. A Fugatti questa cifra, con tutto che l'ha decisa la banca, lei fa politica e rispetto per la banca, ma è una cifra che arriverà alla gente come qualcosa di dovuto e proporzionato o come qualcosa che ci testimonia che i manager vivono sulla luna e bisogna riportarli sulla terra? Sì, è chiaro che la gente prenderà questa buonuscita di 40 milioni di euro come uno scandalo, perché questo è in dubbio soprattutto in questo momento, e questo probabilmente è il prezzo che ed ecco perché è una vicenda azionaria, una vicenda dei soci, il prezzo che i soci che hanno voluto sfiduciare Profumo sono stati costretti a pagare, per pagare in termini proprio economici, per levarselo di le loro scelte, certo. Per le loro scelte. Senatore Rossi, lei che dice? Questi 40 milioni sono proporzionati? No, onestamente io non credo che si possano valutare top manager come Profumo, per un verso, ma ce ne sono altri in giro per il mondo in questa maniera, diciamo. Il lavoro, bisognerebbe andare a calcolare quanti utili hanno fatto gli azionisti nel corso degli ultimi 13 anni per rendersi conto se è o non è proporzionato quell'ammontare. Capisco benissimo che faccia scandalo, me ne rendo perfettamente conto, ma non so se è un giudizio, diciamo, pesato e ponderato. Perché gli utili sono stati per moltissimi miliardi, e questo è un fatto, secondo me, senatore Rossi, sì, fa bene responsabilmente a ricordarlo ai nostri ascoltatori. Lo dico perché qui abbiamo avuto un subisso di SMS appena io ho citato la cifra, 40 milioni, che scandalo, molti lo accostano a Marchionne, che qualche giorno fa alla conferenza stampa ha detto che gli chiedeva, lei guadagna più di 500 volte, e ha detto fate la mia vita, e la cosa secondo me non è stata una buona risposta da parte di Marchionne, perché effettivamente si tocca un punto di sensibilità popolare molto forte. Però gli utili nel caso di Profumo sono stati veramente di molti, molti, molti miliardi negli anni. Eccoci tornati in studio, lascio a voi l'interpretazione autentica. Avete sentito il senatore Nicola Rossi del PD e Maurizio Fugatti, che è capogruppo della Lega Nord in Commissione Finanza alla Camera. Fugatti ci ha detto: guardate, noi ci occupiamo solo di un richiamo alla vocazione territoriale delle fondazioni come azioniste delle banche, e stiamo alla larga da questa vicenda perché l'hanno decisa gli azionisti, non c'entra la politica. Nicola Rossi ci ha detto essersi interrotti sulla strada della uscita dalle fondazioni, dalle banche, comporta pasticci come questo. Lascio a voi però l'interpretazione autentica di queste che sono le parole pronunziate tempo fa dal leader della Lega, Umberto Bossi. Siamo in tutte le province, abbiamo la presidenza di tutte le province, siamo anche nella regione. È chiaro che le banche più grosse italiane alla fine avranno per forza uomini nostri. Ad ogni livello. Certo, è la gente che ci ordina: andate, pigliatevi le banche e noi andiamo. Ecco, naturalmente io capisco, letteralmente dice, siccome andiamo sempre meglio nelle elezioni del nord, nelle fondazioni acquisiremo peso. Dall'altra parte la gente ci dice: prendetevi le banche. Insomma, è un'espressione, ricordate, come quando Fassino fu messo in croce perché nella telefonata con Consorti diceva: abbiamo la banca. Forse i politici dovrebbero evitare anche solo la possibilità che un verbo, un sostantivo uscito loro di bocca in maniera troppo diretta possa associarsi a ruoli impropri della politica nelle banche. Quindi io dico, ognuno di voi la pensi come vuole, queste erano le parole testuali di Umberto Bossi. Noi abbiamo collegato adesso con noi Massimo Mucchetti, editorialista del Corriere della Sera. Abbiamo letto anche ieri il suo commento nel mentre si stava avvicinando al Consiglio d'amministrazione, e anche a Massimo Mucchetti, che con grande equilibrio, secondo me tra i più equilibrati, e seguendo da molti anni con grande attenzione le vicende dei gruppi bancari e finanziari italiani, ieri dava un'analisi delle forze in campo che non aveva una cifra sola, non proponeva solo la politica, era un'analisi intrecciata. Ma gli chiedo anche a lui: la politica in questa vicenda ha contato e ha pesato impropriamente? Oppure, come dice Francesco Giavazzi oggi, il grande errore è quello di un ritorno alla concezione feudale nelle grandi banche, e la politica in realtà non ha questo peso che dice Repubblica oggi nel dire vittoria dell'asse Geronzi, Letta, Berlusconi. La sua impressione, Mucchetti? Ma mi trovo in disaccordo con il mio amico Francesco e con gli amici di Repubblica. Io credo che la politica in questa vicenda abbia avuto un suo peso, come è inevitabile nelle grandi vicende economiche di tutti i generi, ed è inutile stupirsi perché proprio vuol dire non conoscere la storia, ma ha avuto un peso, come dire, un po' diverso da come viene raccontato. Secondo te, Oscar, secondo i nostri ascoltatori, se parla Tremonti a favore di Profumo, è politica o non è politica? Se il sindaco di Verona critica Profumo, è politica o non è politica? Ma dico di più, la Banca Centrale Libica e il Fondo Sovrano Libico sono statali o sono privati? Allora, certo, la politica entra un po' dappertutto, giusto? Certo. E non è che la politica è cattiva quando sostiene una posizione che non ci piace ed è buona e ce la dimentichiamo quando va in soccorso dei nostri amici. Quindi io direi che su queste cose qui bisogna essere avere un po' più di senso storico. La seconda cosa è la decisione, tuttavia, è stata presa da un consiglio di amministrazione dove sono presenti esponenti del capitalismo internazionale come i tedeschi. Io non credo che l'Allianz non dorma la notte perché telefona Tremonti piuttosto che perché parla Zaia o così via, non ti pare? Io credo che l'Allianz decida con la sua testa, no? E tenga nel giusto conto quello che dicono le persone, certamente anche, e poi alla fine hanno deciso diversamente. Cioè, mi pare che il vero problema, il lato brutto di questa storia, ed è triste, che Profumo è una risorsa del paese, oltre che del sistema delle imprese. E da questa vicenda, comunque fosse andata, se Profumo avesse anche conservato l'incarico, in seguito agli appoggi che erano stati mobilitati negli ultimi due giorni, sarebbe stato un'anitra zoppa. Non sarebbe più stato il Profumo che abbiamo conosciuto. Quindi, se posso estrapolare, ma ti chiedo se è corretto farlo, sì. Anche la difesa di cui si legge sui giornali da ieri, che di Profumo da parte del ministro dell'economia Giulio Tremonti, a quel punto sarebbe ipotizzabile, non dico sospettabile, di preferire a quel punto un banchiere anatra zoppa, forse per poterlo meglio guidare, suggerire. Si può leggere anche così il ruolo di Tremonti, secondo te? Allora, io credo che si possa leggere anche così, considerando un aspetto che invece è giusto dell'intervento di Tremonti, la stabilità. Ecco, se è possibile, diciamo così, fare una critica al consiglio di amministrazione di Unicredit, come credo si debba, è che una sostituzione di Profumo la si fa se si crede di dover mandare via Profumo, lo si manda via, ma il giorno dopo è pronto il successore. L'unica scusante che mi sentirei di considerare è questa: è possibile sostituire Profumo con Profumo al timone? Una personalità di questo rilievo? Ecco, questo magari è un po' difficile da fare, ecco, questo qui. E dall'altra parte io ho trovato singolare, ecco, rispetto alla ricostruzione che fa Repubblica, cioè l'idea che come dire, la sostituzione di Profumo sia una vittoria di Geronzi, la vedo complessa, nel senso che a Geronzi probabilmente la cosa può anche non dispiacere, però voglio dire, poi se i fatti hanno un senso. L'ingresso dei libici, che è stato fatto in modo come dire poco conforme al galateo e probabilmente anche alle stesse regole di vigilanza, ove virilmente interpretate, aveva riscosso il pubblico e ripetuto consenso di Geronzi. Appunto, anche per se cui voglio dire, cioè, le cose hanno un significato, sennò andiamo sempre a leggere i tripli giochi. I tripli giochi, in retroscena, esatto. Un po' troppo semplice per capire i tripli giochi. E io non so come la pensi tu, però modestissimamente sono dell'idea che la tesi secondo la quale facciamo fuori Profumo attribuita a Geronzi, cioè così adesso facciamo la fusione Mediobanca Generali, mi sembra una cosa, insomma. Ma no, ecco. Questa cosa qui è stata nell'aria esattamente dopo il caso, dopo il grande trambusto seguito al crack Lehman. Si ricorderà che in quel momento Unicredit soffrì pesantemente, pur non avendo dei numeri, diciamo così, così brutti, no? Però è finito nel gorgo della speculazione internazionale, che l'ha bastonato. Ecco, in quel momento voi ricorderete tutti che molti giornali hanno scritto, io non ero fra questi, non ci ho mai creduto, che Mediobanca, allora presieduta da Geronzi, sarebbe scesa in campo per fondersi con Unicredit e salvare Unicredit con la propria liquidità. Io non ci credevo perché guardando i bilanci, no, i conti non tornavano, però venne detta a lungo, ecco, quella semmai era una manovra destabilizzante di Profumo, e ricordo che in quella circostanza se le fondazioni che vogliono difendere i feudi, che sono politiche, che sono le cose più terribili del mondo, furono esattamente quelle che protessero Profumo, esatto, proteggendo con ciò la banca. Esattamente. Cioè, io trovo che mi scuso perché non ho potuto partecipare prima alle chiacchiere, ma il riassunto che ho sentito delle posizioni dell'amico Nicola Rossi, ecco, io insomma, tutto questo astio verso le fondazioni, onestamente lo trovo fuori luogo, nel senso che le fondazioni sono una cosa strana, ma tra le tante cose strane che ci sono in Italia, tu dici hanno avuto un ruolo di preservare la stabilità molto più che di infatti. Beh, insomma, si sono diluite, sono partite che avevano il 100% di queste banche, si sono ridotte al 3%. Questo vuol dire che hanno accettato una diluizione delle posizioni e quindi del potere che non ha pari nei potentati economici italiani. Ma insomma, ma guardiamoci in giro, quale gruppo privato? Se guardiamo gli incroci tradizionali in salotti come Mediobanca, RCS, eccetera, non si può che in effetti dare ragione, secondo me, a quello che Massimo Mucchetti ci ha appena ricordato. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci tornati in studio. Stiamo sempre parlando ruolo proprio e improprio della politica, o vicenda di azionisti, fondazioni, come giudicarle nella messa alla porta di Alessandro Profumo. Siamo collegati con Massimo Mucchetti del Corriere della Sera. Sentiamo l'opinione di due ascoltatori e poi torniamo con Mucchetti a commentare. Iniziamo con Giuseppe che ci chiama da Roma. Prego Giuseppe, come la pensa secondo lei? La politica ha avuto un ruolo improprio oppure no? Innanzitutto grazie per l'opportunità e per l'interesse dei temi trattati. Io ritengo che ci sia stato un effetto concentrico di una serie di aspetti, diciamo questo, forse nessuno autonomamente avrebbe potuto pensare di arrivare a meta con il risultato finale di cui oggi discutiamo, ma sia da parte politica, sia da parte poi degli interessi dell'azionariato da varie posizioni, nel momento in cui hanno cominciato a circolare certi tipi di ipotesi, credo ci sia stato un effetto concentrico giustificabile alla fine dai vari punti di partenza. La riflessione che volevo indurre era sul ruolo attuale, quale può essere il ruolo attuale della famosa costituzionalmente citata funzione sociale del credito. Mi sono occupato di studi sulle privatizzazioni da economista e quindi l'effetto che oggi viviamo non è altro forse che quello che ci dovevamo attendere da un'uscita strategica della mano pubblica dalla gestione del credito, e oggi non si può condannare da una parte l'azionariato privato che tenta di fare banca in maniera privata e quindi solo col numero del correntista in maniera estrema, come si diceva prima, dall'altra non credo si possa condannare una volontà, sono tutt'altro che leghista chiaramente, ma una volontà di tutelare il territorio e di assicurare oggi, in cui le banche hanno una funzione quanto mai nodale per risollevare la nostra economia, da parte di fondazioni e sindaci sociale. Quindi questa è un po' la considerazione. Grazie Giuseppe che ci richiama al dovere di una visione sistemica, quindi senza fare giudizi troppo tagliati con la spada, un po' come giustamente diceva Massimo Mucchetti, che diceva le fondazioni poi facile voi liberisti che dite devono uscire perché sono metà pubbliche e private, però in realtà hanno più presidiato stabilità e hanno accettato di autoridursi di quanto non abbiano fatto poi azionisti privati che insomma a volte si comportano assai meno responsabilmente e con altri interessi tranne che quelli propri della massimizzazione degli interessi di tutti gli stakeholder, non solo della massimizzazione del proprio ritorno. Carlo che ci chiama sempre da Roma. Carlo, lei come la pensa? Buongiorno, io per trasmissioni veramente importanti in questo periodo di cambiamento della governance mondiale. Io mi chiedo se parlare di potere mi sta bene, perché il potere è quello che l'economia riesce a generare, a produrre per il benessere un po' di tutti. Parlare di poteri, ovvero sia la separazione, giustamente, stampa, istituzioni, eccetera, è altrettanto importante, ma semplicemente per garantire che si seguano le regole del gioco, nel senso che un marchionne gioca con i soldi, diciamo originariamente degli agnelli, adesso pure dei risparmiatori americani, quindi non si potrebbe permettere di portare avanti dei discorsi che non siano approvati preventivamente. Così era il caso, è stato il caso del pur eccellente signor Profumo, il quale avrebbe dovuto scegliere a un certo punto se fare lui il politico, quindi uscire, ma non giocare a rischio coi soldi degli altri. Quello che mi interessa però sottolineare è che il potere è evidente che sia pervasivo, cioè in macroeconomia e soprattutto su una banca così grossa e così partecipata multinazionalmente, internazionalmente, da attori attori che sono pubblici e attori industrie private di vari paesi. È inevitabile che il consiglio di amministrazione sia portatore di interessi che possono essere ostili. È inevitabile che sia così, e quindi anche qui una visione sistemica. Domanda secca conclusiva a Massimo Mucchetti: sarebbe pensabile la simmetria di una situazione analoga con amministratori italiani, espressione di un merger, di un'acquisizione tedesca in Italia, e loro in consiglio di amministrazione, che ne so, a Deutsche Bank, che si mettono alla testa di azionisti scontenti e sostituiscono Ackermann, il capo di Deutsche Bank, o i tedeschi direbbero: signori italiani, fateci il piacere? Che pensi tu? Ma io questo non lo so, constato che la HVB, la Hypovereins Bank, che Unicredit ha comprato, no, qualche tempo fa, era una banca tedesca, e i tedeschi hanno accettato che venisse presa dagli italiani. I maligni aggiungono: era una banca assai malandata da 2 anni, tutte le altre banche tedesche la guardavano, nessuno la prendeva. Ecco, per cui voglio dire, quelle robe qui vanno sempre viste un po' nel contesto. Io non credo che qui siamo, i tedeschi certamente da oggi contano un po' di più in Unicredit, non credono che sia in grado di colonizzarlo. Quello che invece, l'ultima osservazione se posso dire, in conclusione, è che sempre sul tema fondazioni, mano pubblica, mano privata e quant'altro, beh, io dico che se noi dovessimo far fuori del tutto le fondazioni dalle banche per sostituirle con la banca centrale di Gheddafi e con il fondo sovrano di Gheddafi, giusto, ragazzi, di che cosa stiamo parlando, perché è politica. Anche quella altro è che un po' meno buona, è un po' nostra, meno, no? Buona della nostra, ecco, mi pare che Massimo non è ottima, però insomma, mi pare che Massimo Mucchetti ci riconduce a buon senso con questa sua conclusione. Naturalmente il dibattito resta aperto, vedremo soprattutto i titoli, che tipi di successori adesso candideranno dopo Profumo la guida di Unicredit. Grazie a Nicola Rossi, a Maurizio Fugatti, a Massimo Mucchetti. Grazie a Carmelo Lauricella e Valerio Rocchetti in regia, ad Alessandro Marco Tulli e a Guerra che ci ha assistito stamattina. Appuntamento a domani, Linea Giornale Radio.